l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato fatidico, sabato 2 luglio, Sant'Ottone, oltretutto è un santo che ispira la chiesa germanica, però sapete tutti, lo sappiamo tutti, come e dove sarà messa la testa degli italiani nella stragrande parte della maggioranza degli italiani e del corso della giornata, cioè la partita di questa sera, una partita che per molti rievocherà queste, ricordate che cosa avvenne una certa sera, tarda notte del 70, ve lo ricordate? Questa drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Boninsegna ha saltato, shoot, passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora. Vabbè. Preistoria, può sembrare preistoria, però è entrata nel mito fondativo italiano, per così dire, più della prima e della seconda guerra mondiale. Del resto, insomma, ogni tanto eventi positivi servono a creare i miti identificativi di questo paese, ed è di questo che coi compari oggi dei Conti della Belva, non solo di questo, ma dopo aver fatto come sempre il punto sugli argomenti della settimana e in particolare su stime di crescita e concessione di questa linea di garanzia di Stato a eventuali emergenze di liquidità delle banche italiane, dopo aver fatto il punto con Mario Seminerio su i rischi e le novità della crisi di questa settimana, andremo a due grandi pezzi, per così dire, della trasmissione imperniati esattamente sull'analisi di quello che succede stasera. Non è un'analisi sportiva, non ci spacciamo per tecnici del calcio, ma tecnici di alcuni aspetti fondamentali, sì. E cioè si affrontano due sistemi economici, non parliamo solo dell'economia pubblica del paese, della finanza pubblica delle banche, ma anche due sistemi economici del calcio. E allora bisogna vedere quanto conta e quanto pesano alcuni fondamentali del sistema del calcio italiano, non proprio brillanti, e quanto conta la differenza di quelli del calcio tedesco, che apparentemente sembrano più solidi. Ecco, ci interrogheremo su questi aspetti e ne spiegheremo un po'. Su alcuni aspetti culturali che sono legati a come si vive il calcio qua e come si vive il calcio là, e per questo telefonateci all'800 24 00 24. Stiamo aspettando le vostre chiamate per sapere come vivete questa giornata, se siete convinti che in qualche modo il risultato è anche per così dire dovuto al fatto che economicamente loro sono più solidi di noi. Vi dico solo che la loro squadra in termini di cartellino vale 580 milioni di euro, la nostra ne vale più o meno 270, quindi c'è un certo divario, per così dire, ma lo sappiamo che in campo poi si vince per la passione, per la tecnica, c'è Conte che fa i miracoli, però attenzione che l'economia conta, conta e Conte, per così dire. Allora, chiamateci all'800 24 00 24. Intanto i saluti dei compari dei Conti della Belva che sono qui in studio insieme a me, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè, e immediatamente da parte loro, al di là delle banche di cui parleremo subito, qualche osservazione su qualche aspetto della settimana che ci ha colpito. Mario. Ma io sono affascinato da come sta evolvendo, diciamo, il post referendum britannico sulla Brexit, nel senso che abbiamo visto il povero Boris Johnson uccellato, colpito, affondato nel giro di poche ore da Mr. Gove, che anche proprio, come dire, somaticamente sembra un personaggio molto british, però mi fanno presente che è un troll di professione, per cui sarà interessante seguire le sue evoluzioni. Sarà anche interessante vedere come questo impatterà sull'economia globale, perché mentre, diciamo, l'impatto immediato e anche le previsioni dei giorni precedenti sul referendum in caso di Brexit erano calamitose, diciamo, poi alla fine i mercati hanno reagito meno peggio del previsto, i mercati finanziari, poi l'economia reale con la sua incertezza è tutto un altro paio di maniche. Voglio dire, abbiamo avuto il governatore Mark Carney, che peraltro è canadese, della Bank of England, che si è detto pronto anche lui a fare il suo bel whatever it takes, la sterlina si è inabissata, le borse hanno recuperato, eccetera. Però io suggerirei questo, visto che vedo che in Italia ci sono molti patrioti no euro che si basano sulla bontà della Brexit, misurandola dagli indici di borsa, Intanto la misurazione non è quella, poi guardiamo il fatto che c'è comunque un impulso espansivo molto importante dato dal deprezzamento della sterlina, e poi se riusciamo a evitare di fare lo stadio come al solito e di andare impossibile, lo sai. No, ma quello è impossibile, soprattutto nella giornata di oggi, però se dobbiamo cominciare a fare lo stadio dicendo sì, però avete visto che l'indice FTSE, che peraltro è un indice completamente globalizzato, ha recuperato quanto e più degli altri, vuol dire che non c'è nessun problema Brexit? No, perché la Brexit non è ancora avvenuta. Bisognerebbe semplicemente prendere questo dato e ficcarselo bene in testa. Poi per quanto riguarda le previsioni economiche, penso che anche Carlo Alberto abbia da dire qualcosa, diciamo, sul piano metodologico. Sì, in effetti Mario, devo dire che questa settimana celebra l'uso politico sia delle previsioni economiche, qui mi spiace fare riferimento ai numeri che sono usciti da Confindustria nelle ore scorse e che parlano di uno scenario apocalittico, 4 punti percentuali di PIL persi, 17 punti di investimento in meno, 600.000 unità di lavoro sparite in seguito, e questo è il nesso causa-effetto, francamente dobbiamo comunque validarlo, in seguito a un eventuale no al referendum. Io ci aggiungo in seguito a una crisi politica. No al referendum, esatto. Costituzionale. Costituzionale, esatto. Sì, chiedo, esatto. Scusa. Che in realtà dovremmo allargare in seguito alla crisi politica connessa all'eventuale, sì, no al referendum costituzionale. Allora, posto che secondo me il segno di quelle conseguenze probabilmente è fondato, e la dimensione è francamente sconcertante, anche perché lo stesso Centro Studi di Confindustria ci ha un po' stupito un anno e mezzo fa, quando invece all'esatto contrario prevedeva fantasmagoriche crescite del PIL a fronte del fatto che il petrolio stava scendendo significativamente. Allora, l'uso politico delle previsioni non è mai opportuno, perché poi rischia di diventare, come è successo in Inghilterra, caro Mario, project fear, cioè il progetto paura, quello con cui i Tories in generale hanno cercato di arginare il malumore che poi ha portato, o comunque sono la differente opinione che poi ha portato a Brexit. Oggi sul Corriere anche Dario Di Vico parla di allarmismo pedagogico, dicendo certo, attenzione che c'è il rischio autogol, perché se lo fate, cioè se caricate l'arma con tutta questa polvere, con l'idea che serva a far riflettere la gente, che consapevolmente scelga, perché altrimenti poi non si lamenti delle conseguenze negative, troppa polvere fa esplodere il cannone, c'è, prima. C'è l'effetto anti-intellettuale, c'è, esatto, l'effetto di anti-elite, che dal mio punto di vista è fondato nella misura in cui le elite, o presunte tali, non fanno lo sforzo di far capire veramente, per esempio di far scendere questi numeri in esperienza concreta. C'è un'altra cosa che devo dire, al contrario, le feste che sono scoppiate in seguito alla ammissione da parte della Commissione Europea, che anche l'Italia insieme ad altri 3 o 4 paesi d'Europa è stata ammessa a una linea di emergenza sulla liquidità delle banche di 150 subito. miliardi, e anche qua diciamo effetto contrario, cioè ormai un numero provoca feste popolari o lutti della nazione, e francamente invece lo sforzo è capire. Allora di questo ne parliamo subito, e non sottovalutate che anche la decisione della Corte Costituzionale austriaca secondo me avrà qualche effetto sulla temperie europea, anche la Repubblica Ceca, no? Che stanno praticamente, sono sulla rampa di lancio di un referendum anche loro, esatto, per cui... Quindi io continuo a vedere, per così dire, un periodo nel quale ciò che sembrava scontato non lo è più, e credo che dire colpa degli elettorati sia da parte dei politici veramente l'ultima fuga nelle responsabilità, e la politica ha una responsabilità che è preminente. Il fatto che in Gran Bretagna ci sia la fuga della leadership più che la candidatura alla leadership, nel, sì, senso che l'esercizio della leadership viene da tutti i candidati al Partito Conservatore, rinviato da chi lo rinvia a 6 mesi, chi un anno, chi 2, e quindi questo significa che è comodo candidarsi a voler guidare un partito, cioè, poi le scelte concrete ne parliamo dopo. Ragazzi, ecco, questa è la crisi che mi colpisce di più, per l'amore che porto alla Gran Bretagna e al suo sistema politico. Questa volta siamo in presenza di una caduta vera. Assistere alla compassata durezza e all'energia con cui Michael Gove, l'attuale segretario, l'attuale membro del governo, che è stato il capofila della contestazione al leave di David Cameron, ma se voi andate a grattare dietro il tono composto di questa singolare faccia di mista di ventenne e cinquantenne che ha Michael Gove, che lo rende simpatico, lo rende un personaggio da serie televisiva, però nel concreto tutto quello che dice è il rinvio di alcune scelte concrete, senza dire sui punti di fondo vogliamo star, lui vuole star fuori, ma vuole abbassare i dazi e fare del Regno Unito una grande Irlanda, potrebbe essere la strada per il futuro economico del paese, oppure vuole trattare per mantenere il più possibile aperto lo spazio persone, beni e servizi con l'Unione Europea? Questo secondo tema viene eluso. Allora, che in Gran Bretagna sia tutto un po' così, per me è una colossale delusione. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci qui tornati con i compari dei conti della Belva e cominciamo appunto con il nostro appuntamento con il compare numero uno per quello che riguarda numeri, interpretazione e tagliente. Richiamo al fatto che i numeri si rispettano, non si manipolano, cioè noi... Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non... Con Mario. Allora Mario, da dove vogliamo partire questa settimana? Ma dobbiamo per forza partire, ecco, non tanto dai dati macro, perché poi adesso lasciano il tempo che trovano, che sono tutti già obsoleti alla nascita, ma lo sono sempre, ma mai come in questo periodo. Io direi che bisogna veramente partire da questa situazione delle nostre banche, che sta diventando un tormentone, nel senso che sulla Brexit mi pare di capire, visto che io sono rimasto veramente affascinato, no, da questo, come dire, uragano di rumor, boatos, che ha circolato per tutta la settimana sui quotidiani italiani, dove ognuno lanciava delle cose più mirabolanti dell'altro, evidentemente per il terrore di prendere dei buchi informativi. No, non era solo per quello, ti posso garantire. O per essere, diciamo, in prima fila come buca delle lettere di Palazzo Chigi, che magari questo è un po' più realistico. Anche via nazionale, no? Esatto, sì, sì, diciamo per compiacere i poteri. E quindi è uscito di tutto. Cioè, io sono riuscito a leggere nei giorni scorsi che... Non si sa da dove proviene sta fonte, ovviamente, ma il governo italiano starebbe meditando per avere aiuti, per poter, diciamo, utilizzare denaro pubblico, ricapitalizzare le banche e privarle di queste sofferenze che le stanno portando a fondo, di creare una società secondo la cornice normativa europea della SIEG, cioè del Servizio di Interesse Economico Generale. Ho visto che su questo tema è stato particolarmente attivo, ad esempio, il Messaggero sul piano informativo, che... è un quotidiano che di solito è abbastanza vicino, diciamo, a determinate strutture romane. La SIEG, io mi sono stato costretto a documentarmi. Siamo perché, tutti dovuti documentare. Esatto, perché, diciamo, confesso la mia più crassa ignoranza. Sono i servizi di interesse economico generale, che per lo più sono relativi a situazioni come ad esempio il servizio universale nelle poste, sì, le comunicazioni telefoniche, tutte queste cose qui. Non c'entra assolutamente nulla con il risparmio. Cioè, non è che c'è un fallimento del mercato e dobbiamo a questo punto togliere le sofferenze dalle banche perché altrimenti non si sa cosa succede. Cioè, il problema è che si può invocare il servizio di interesse economico generale per quanto riguarda le banche solo in caso di fallimento del sistema dei pagamenti. Cioè, se voi non riuscite più a fare o a ricevere bonifici per motivi di fallimento del mercato, la risolviamo così. Se no, che cosa possiamo fare? Beh, ma sai che la tesi, illustrata peraltro da luminosa intervista del presidente dell'ABI, come ieri, in questi giorni, sta sul fatto che esiste una tutela costituzionale, per così dire, al risparmio, che è più estesa di quella del servizio universale necessario, quello del sistema dei pagamenti a cui facevi riferimento, certo, tu, in base alla quale, per questa tutela costituzionale, appunto... non solo è possibile equiparare l'efficienza della tutela del risparmio all'efficienza di un servizio di interesse pubblico generale, i trasporti, le telecomunicazioni, perché di questo stiamo parlando, la SIEG si applica a quello, sì, bensì intanto si può fare, e quindi viva la SIEG, e quindi do soldi pubblici. Secondo, qualunque impedimento di tipo europeo, le norme europee, è incostituzionale. Questa tesi ieri ci è stata esposta dal presidente dell'ABI con una chiarezza e durezza senza pari, e io sono rimasto senza parole. Ho appreso che per l'ennesima volta viviamo in un paese nel quale ex post, dopo aver votato regole approvate eccetera, le definiamo in costituzione. Però diciamola tutta, adesso la posizione del presidente dell'ABI è politicamente comprensibile, anche però questa continua invocazione dell'articolo 47 della Costituzione sulla tutela del risparmio, cioè, scusate, ma allora il bail-in non è ancora stato applicato e attuato in nessun paese, perché è entrato in vigore il 1 gennaio. Quello che noi abbiamo visto a novembre dell'anno scorso è stato un tentativo di applicazione, però ex norme del 2013 sulla condivisione dell'onere, cosiddetto burden sharing. Burden sharing, perché sennò poi ci dicono che parliamo troppo inglese, quindi cerchiamo di essere autarchici. Ma la tutela del risparmio, allora, di fronte ad una banca che è in dissesto, gli strumenti giuridici italiani e non solo prevedono una cosa chiamata liquidazione coatta amministrativa. Davanti alla liquidazione coatta amministrativa, che è conseguenza di un dissesto, l'articolo 47 della Costituzione lascia il tempo che trova, perché se valesse questo tipo di ragionamento, cioè che la tutela del risparmio prevale e ha la prominenza su ogni altra situazione, non fallirebbe più nessuno. Nessuna banca, i creditori sarebbero tutelati sotto ogni scenario, e questo sarebbe il miglior mondo possibile, un mondo da fiaba, ma è palesemente irrealistico. Per cui, se la BRRD, diciamo, sacrificando se e quando dovesse accadere gli obbligazionisti subordinati, tutela però i depositanti e altri creditori più senior, allora l'articolo 47 della Costituzione è rispettato. Però noi non possiamo avere un contesto in cui si invoca l'articolo 47 della Costituzione per tenere in piedi banche che eventualmente fossero in dissesto, perché c'è qualcosa che non quadra. E questo è l'ennesimo modo di tenere in ostaggio i risparmiatori, tutti, per tutelare i gruppi di comando e controllo. Oh. E questa è una forma di oligarchia che prima o poi dannerà questo paese. Sta già accadendo, ma prima o poi lo dannerà davvero. Molto d'accordo con te. Per esempio, alcuni titoli di letture sulle quali noi, ci, con grande rispetto ma totale ferma energia, siamo in totale dissenso. Se prendete oggi Milano Finanza, edizione del sabato, la settimana diretta da Panerai, e trovate articoli, articolesse, bene la rete di protezione sulla liquidità, ma non basta affatto, dice Angelo De Mattia. Angelo Di Mattia, uno a caso, ecco, che scrive incessantemente tutti i giorni sul fatto che noi siamo assolutamente il punto di riferimento di ciò che va tutelato rispetto a ciò che l'Europa e la Germania ci infligge in tema di solidità bancaria. Oppure Guido Salerno Loretta: il bail-in va sospeso subito, se ne può riparlare solo dopo la ricapitalizzazione e la soluzione del problema NPL, a cui deve pensare lo Stato. Ecco, questa è la linea che è andata avanti in settimana, e su questo è intervenuto poi, dopo questa convulsa partita mediatica che purtroppo al Consiglio Europeo straordinario per la Brexit ci ha visto incassare un bel ceffone alla Merkel, ma come era inevitabile secondo me, e che ha fatto stizzire, e lo capisco, giustamente il Presidente del Consiglio, perché trovarsi nel Consiglio Europeo in cui si parla della Brexit con l'Italia che chiede le deroghe non è esattamente il massimo, secondo me, di fronte alla cancelleria di tutta Europa e ai mercati mondiali. Detto tutto questo, è arrivata poi la notizia filtrata dal Wall Street Journal, si è incazzato tantissimo di nuovo il governo, la Banca Italia eccetera eccetera, che contavano invece di ottenere l'ok della Commissione Europea e della BCE, visto che si parla di linee di liquidità, a questa garanzia fino a 150 miliardi per eventuali emergenze sulla liquidità. Cioè la liquidità è quella che serve per l'operatività quotidiana delle banche. Distinguiamo, cari ascoltatori, un conto è parlare del capitale. Le banche sono parecchio storicamente sottocapitalizzate in Italia. Quando sentite parlare che ci vuole lo Stato nel capitale, allora bisogna immaginare che vi stiano raccontando che non va bene la BRRD, cioè non va bene arrivare a risoluzione i cui oneri si danno sugli azionisti a zero e che colpiscono gli obbligazionisti subordinati, perché si può interrompere la catena priva facendo ricapitalizzare dallo Stato, e questo è impedito dalla regola europea. Ma quello riguarda il capitale. Poi c'è un secondo problema che riguarda i crediti deteriorati, cioè Atlante, adesso si lavora Atlante 2 eccetera eccetera, e adesso siamo arrivati a segnalare che c'è un terzo problema sistemico che riguarda la liquidità. La liquidità, se c'è un problema di liquidità, vuol dire che si rischia di chiudere, per così dire, cioè la banca non è in condizioni di far funzionare gli ATM, i bancomat, capite? Allora, quando si arriva a questo rischio, è il rischio della Grecia quando c'era la fuga dei depositanti, no? E gli hanno dovuto, e senza la linea straordinaria di liquidità che si chiama ELA, le banche greche non potevano neanche alzare la serrana. Questa non è l'ELA, L'ELA è la forma più estrema di assistenza alla liquidità, e l'ELA, cioè l'Emergency Liquidity Assistance, espone direttamente la singola banca centrale del paese che fa parte del sistema della Banca Centrale Europea. Questo non arriva a quello, però ragazzi, noi siamo esposti evidentemente a un rischio fortissimo di questo tipo, e l'entità della garanzia, cioè 150 miliardi, 9 punti di PIL passa, ci segnala comunque ai mercati mondiali come un paese in cui la stessa stima delle autorità italiane è che questa estate, a fronte di uno sbandamento dei mercati, a fronte del fatto che l'azione MPS arriva a 0,1 oramai, visto che è a 0,2 qualche cosa, inizi un fenomeno molto pericoloso, che può essere fatto di ritiro dei depositi. Inizia a esserci un fenomeno per il quale neanche le aste di liquidità della BCE, che servivano a risolvere questo problema e alle quali le banche italiane hanno attinto per il 34% del totale delle 2.400 miliardi circa dati fino a oggi dalla BCE, serve a risolverlo. Allora questo è un problema, ti pare, Mario? Sì, e tra l'altro questa è l'esigenza di avere titoli stanziabili, cioè che possano essere messi a garanzia presso la BCE per avere liquidità della BCE. Quando una banca italiana subisce deflussi importanti di depositi, magari a vantaggio di un'altra banca italiana che è percepita come più solida, la banca italiana che subisce deflussi si disequilibra. Ecco perché può essere opportuno, necessario e importante che la banca italiana possa e debba emettere obbligazioni proprie, che in questo contesto, diciamo, sono difficili da sottoscrivere. Piazzare, esattamente. Esatto, ricordiamo, esatto, che ne hanno piazzate tante, forse troppe, esatto, nel modo sbagliato. Esatto. E adesso la raccolta obbligazionaria sta crollata. Sta decrescendo del 15% lo stock, ma l'emissione si dimezza. Ricordiamo che ce ne sono 127 miliardi circa in scadenza da qui a fine anno, l'abbiamo ricordato per primi, ed è importante dirlo perché la ragione prima, più urgente, è proprio questa: rifinanziare le obbligazioni in scadenza. E creare uno stock di obbligazioni stanziabili per avere liquidità da parte della BCE, perché questo stock sta cominciando a scarseggiare. Quindi l'assegnazione di questa linea prudenziale o emergenziale di liquidità, che è prevista dalla cornice normativa europea, è una cosa buona e giusta. Tuttavia è chiaro che per l'ennesima volta accende un faro sull'Italia, per l'ennesima volta rischia di essere l'autodenuncia di uno stigma italiano del tipo: noi abbiamo delle banche solidissime, però stanno progressivamente diventando illiquide. Sì. Il che, attenzione, perché dall'illiquidità alla insolvenza il passo è breve. I concetti sono diversi, ma sono connessi. Anche se vedo che in questo paese sono 6 o 7 anni che si fa, a livello di stampa, in media, una fatica enorme a discernere liquidità da solvibilità. Anzi, non sono mancati commenti immediati sui social dei giornalisti economici, eccetera, eccetera, che mostravano ancora una volta, mi dispiace dire, non mi metto a far nomi, non mi impanco a maestro, lo dico perché abbiamo un compito noi, cioè essere chiari nello spiegare, poi ci vengono anche le opinioni, ma nello spiegare. Se invece fai prevalere l'opinione e neanche spieghi, fai confusione, perché non fai capire alla gente di cosa si parla, e cioè che il capitale è una cosa, gli NPL sono un'altra, che la liquidità è una terza distinta, che certo che tra illiquidità e insolvenza c'è un cammino di progressione, però ci sono visti commenti di fronte soprattutto al fatto che la notizia usciva per vie che non erano pilotate dal Tesoro e dalla Banca d'Italia, e quindi non c'era stata l'imbeccata preventiva, per così dire, ha dominato non solo l'incertezza ma anche la confusione. Quindi si tentava di dire: benissimo, vuol dire che è finita la BRRD. No, non c'entra assolutamente niente da questo punto di vista. Esatto. Comunque, adesso andiamo al primo blocco dedicato al calcio, in attesa che voi ci chiamate dicendo come state vivendo questa giornata, che fanno i tedeschi, ci mettono sotto con la loro forza economica anche nel calcio oppure no? Iniziamo tra un minuto. State ascoltando un programma offerto da Helios Patient Portal, è il portale paziente della sanità. Vai su helios24.it. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati in diretta alle 10.35 primi e 18 secondi questo sabato 2 luglio e con tutti voi che da una parte nei giornali radio eccetera eccetera tenete un occhio dolente rivolto a DAC, da dove stanno uscendo i particolari del bilancio delle vittime dopo il blitz in questo albergo in cui gli iniziali dell'ISIS avevano tenuto sequestrati dei turisti stranieri, e potrebbe crescere il bilancio delle vittime italiane perché a quanto pare le vittime aggiuntive sono tra stranieri, quindi italiani e giapponesi, vi terremo informati naturalmente. Nel frattempo, di questa dolorosa nuova notizia che dà l'idea del quadro internazionale in cui ci muoviamo, lo sappiamo tutti che milioni e milioni di italiani pensano, stanno facendo di fronte all'orologio, contano i minuti per questa sera per il grande scontro calcistico tra Italia e Germania, che è un classico storico che si ripropone, e la nostra intenzione qui è di interrogarci e interrogarvi su quanto pesa anche a pallone il peso dell'organizzazione economica di cos'è il business del calcio nei due paesi. Comunque, ultimo ricordo dopo il Messico di quello che accadde nell'82. Bergomi, Scirea, Tardelli. E questo era naturalmente, nel frattempo Tardelli faceva quella lunga camminata leonina urlando e facendo impazzire, orgasmando milioni di donne italiane, non solo italiane, anche adesso vedo che oltre il vetro della regia tecnica ci sono delle espressioni beatifiche sulle ragazze che abbiamo. Ecco, Tardelli insomma poi finì 3-1, l'Italia anche in quel caso batté contro il pronostico, sì i tedeschi, però il pronostico c'era più favorevole rispetto alla media tecnica e di valutazione del mercato della squadra guidata da Conte. Oggi lo squilibrio è più grave. Io adesso do la parola a chi segue molto meglio di me queste vicende, però io sono convinto, lo dico solo all'inizio, cari ascoltatori, che il sistema del calcio italiano, proprio dal punto di vista anche economico, va profondissimamente riformato, e non me lo aspetto da chi guida attualmente la federazione. Magari mi sbaglio, ma io credo che ci siano dei numeri, ieri ne ho rilanciati solo due o tre, sui quali bisogna riflettere. Cioè, davvero siete convinti che conti poco o niente il fatto che il 9% di chi gioca nei club di Serie A venga dalle giovanili, mentre in Germania è più del doppio la percentuale? Io penso che conti. Davvero siete convinti che un sistema in cui negli ultimi 4 anni i 10 club più importanti della Serie A hanno perso 1.200 rotti milioni, mentre quelli tedeschi ne hanno guadagnati 100, conti poco questa cosa? Cioè, anche nel calcio noi facciamo troppo debito. Secondo me questi squilibri sono invece fondamentali. Allora, per descriverveli, abbiamo con noi collegato Marco Bellinazzo, che è giornalista e blogger di questa materia sul Sole 24 Ore. Il blog che trovate sul Sole si intitola Calcio Business, e il libro, punto di riferimento per capire di più sull'economia del calcio, Goal Economy, come la finanza globale ha trasformato il calcio, di Baldini e Castoldi. Grazie di essere con noi, Marco. Ciao, buongiorno Oscar. E Carlo Alberto, che nella sua versatile capacità di interpretare molti aspetti del mercato, ci crediate o no, non per sedurre sulle studentesse della Bocconi, è anche molto competente di Economics Analytics del calcio, è vero o no Carlo Alberto? Ma di calcio non capisco niente, provo a cercare di capire qualcosa di come un'organizzazione sportiva fa l'azienda, ammesso che ci riesca, e devo dire che in Italia ci riescono pochissime purtroppo, però è così. Marco ci sei? Sì, ecco. Cominciamo questo derby europeo, lo cominciamo, facciamo così, tu tifi Italia e io tifo Germania, te lo dico subito. Allora, mi spieghi che cosa c'è da dire in premessa, e cominciamo, se vuoi, secondo me, se non ti piace, dal calcio di team, quindi dal calcio delle leghe nazionali, per capire questo confronto. Che cosa differenzia il calcio, quello del campionato italiano, da quello tedesco? Cominciamo da qua. Beh, credo che non ci siano forse due modelli antitetici dal punto di vista dell'organizzazione delle leghe, come appunto quello tra l'organizzazione italiana e quella tedesca. E la cosa straordinaria è che nell'ultimo decennio, straordinario ovviamente a favore dei tedeschi, è che essendo una lega minore in Europa, 10 anni fa, hanno iniziato una politica, per dire, la seconda squadra del sistema tedesco, il Borussia Dortmund, era sull'orlo del fallimento. E a quel punto i tedeschi hanno messo in atto quelle politiche, diciamo, organizzative, che si basano molto, pensiamo al sistema delle banche tedesche, sul rapporto tra aziende nazionali e club, e hanno sostanzialmente avviato una riforma dei club, delle nazionali, delle giovanili, che ha portato il calcio tedesco in termini economici a diventare la seconda lega calcistica europea, con un fatturato superiore a 2,5 miliardi, superandoci, il nostro fatturato viaggia ormai da anni intorno al 1,6-1,8 miliardi, ma insomma si muove più che altro sulle plusvalenze, per il resto la crescita è a tassi di inflazione, ma quella attuale, quindi da 0% a 1% al massimo, mentre i tedeschi crescono a doppia cifra. E il dato molto interessante è che noi avevamo questo piccolo orgoglio di essere la seconda lega in Europa per i diritti TV, con 1,2 miliardi di incassi. Ebbene, il contratto appena stipulato dalla Lega tedesca con Sky Deutschland, la Lega tedesca ci ha battuto anche da questo punto di vista, incasserà 1,4 miliardi all'anno dai diritti televisivi. Se volete poi possiamo entrare nei dettagli di questo modello organizzativo, che è molto nazionalista e si basa per esempio su una regola cosiddetta del 50+1, per cui nessun club può appartenere appunto a una proprietà straniera o a una singola proprietà, salvo alcune eccezioni. Alcune eccezioni in cui si realizza questo connubio tra la grande industria tedesca e il club di calcio. E facciamo tre esempi. I due più semplici, diciamo, sono il Bayer Leverkusen, che appunto appartiene alla Bayer, il Wolfsburg, che appartiene alla Volkswagen. E l'esempio massimo di ciò che è il calcio tedesco, e qui concludo, è il Bayern Monaco. Il Bayern Monaco ha un azionariato per cui la maggior parte delle azioni appunto è di un'associazione di tifosi, ma poi il 25% del club appartiene ai colossi come Allianz, Adidas e Audi, qui ritorniamo alla Volkswagen, e se andate a guardare chi sono i componenti del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco, ci sono appunto tutti i grandi manager di queste aziende e di altre, e vi sfido insomma a confrontare il CDA di questa del Bayern, quello... comunque, delle, però Marco non va bene, cavolo, cioè qui dovevo fare Germania io, va a finire che mi hai fatto l'apologia del modello tedesco, non va bene, quindi devo sfidarti di nuovo e devo farti tornare un secondo un po' più in alto, cioè il confronto fra il modello europeo e quello americano, perché è importante capire questa cosa qua, no? Faccio un breve elenco delle differenze per far capire anche ai nostri ascoltatori. Noi abbiamo in Europa, e quindi questo ci accomuna con la Germania, un modello orientato fondamentalmente all'utilità sportiva, no? Mentre in America tutti i grandi campionati sportivi sono fondamentalmente business oriented, quindi al profitto. Noi abbiamo un modello molto piramidale, cioè aperto alla base con il sistema dei campionati, e loro invece hanno un modello chiuso fondamentalmente, in cui nessuno retrocede, nessuno viene promosso. Noi abbiamo un modello monopolistico, le federazioni sono titolari esclusivi dei diritti, mentre in America ci sono leghe e federazioni che concorrono, no? Quindi uno può fondare una NFL alternativa. Noi abbiamo un modello in Europa, e questo è positivo, e questo è praticamente vero per la Germania, molto internazionalizzato, cioè attiriamo giocatori da tutto il mondo. In America è molto concentrato sugli Stati Uniti, che però hanno ovviamente un bacino molto importante. Noi però invece abbiamo un modello statico sui titoli sportivi, mentre in America i titoli sportivi sono comprabili sul mercato. Questo per chiarire la differenza fra il modello europeo e quello americano. Anche se però ti faccio un'obiezione, caro Alberto, i diritti saranno formalmente della federazione, ma come si vede da vicende scandalose come le aste truccate e riscritte a tavolino per i diritti televisivi, quelli su cui indagano le procure appunto 2 anni fa, che è avvenuto sotto gli occhi di tutti, eppure in pochi ne abbiamo denunciato immediatamente, abbiamo dovuto aspettare 2 anni per vedere che la procura si muovesse e l'antitrust si muovesse, però lì era la Lega a far tutto, non la federazione, ma come sai meglio di me. Quindi è un'ipocrisia questa faccenda dei diritti. Figurati, io anzi sto cercando di far leva proprio su questo monopolio legale finale per rimettere ordine e come dire, riprendere la redina della faccenda. Volevo tornare all'argomento di Marco, l'ultimo, proprio sul management. Mentre in Italia, e qui torniamo in Europa, e sulle differenze, sul fatto perché... al di là di una partita, e ovviamente stasera poi rimetto a tifare Italia, ma io devo tifare Germania perché, e lo faccio per l'interesse nazionale italiano, perché dobbiamo capire e imparare che quel modello, per esempio, a livello di management, mentre in Italia lo sport del calcio è diventato, come dire, il mecenatismo politico di qualche sì. personaggio in cerca di autore da cui essere intervistato, in Germania il calcio è scelta commerciale, di marca, di comunicazione strutturale delle grandi organizzazioni finanziarie e industriali del paese. Questo dobbiamo dirlo chiaramente. In Italia l'unico modello vero è stata, se volete, la Juventus con la Fiat, in parte lo è stato il Milan con Finiver, ma solo in parte. Tutte le altre squadre sono in mano fondamentalmente da tycoons. Ecco, vogliamo fare questo primo commento fondamentale, Marco? Sì, io non volevo prima sovvertire l'ordine che mi avevi dato, però cioè, non ce l'ho fatta, diciamo, a non perché ci sono dei fatti, almeno ma tutti no, ma ci l'Italia. Sono dei fatti oggettivi, così. Ecco, su quelli sono scivolato, però ecco, il nostro sistema è un sistema che era, ragazzi, ricchissimo. Allora, 10 anni fa, e qui faccio un piccolo accenno a un esempio che faccio sempre per far capire quello che è accaduto: Inter e Barcellona, mi sposto un po' sulla Spagna, avevano lo stesso fatturato, circa 160 milioni. Oggi il fatturato dell'Inter, vedremo cosa faranno i cinesi, ma viaggia intorno ai 180 milioni. Il fatturato di Barcellona è stato annunciato proprio 2 giorni fa da Bartomeu, il presidente del club catalano, è arrivato a 670 milioni, 670. Qualcosa è accaduto in questi 10 anni. E tornando in Italia, cosa è accaduto? Per meglio dire, cosa non è accaduto? Che quel modello di mecenatismo, anche politico, sia a livello nazionale che a livello locale, perché fondamentalmente i club poi si detenevano per quello, per avere, cioè, per dare qualcosa magari a territorio che ti aveva concesso, diciamo, tra virgolette, delle fortune, degli affari o altro, per essere più pragmatici, ma soprattutto poi per avere appunto questo tipo di ritorno e questo tipo di potere. Ora, questo modello del mecenatismo, che andava anche bene finché non valeva, diciamo, l'aspetto commerciale, non si considerava l'azienda calcistica, non si poneva il problema del profitto, c'era per esempio un piccolo aspetto che era quello del consolidato fiscale, che permetteva poi di utilizzare le perdite come barra fiscale, quindi buttando le perdite del club calcistico a ridurre l'imponibile del gruppo, ma lasciamo stare, diciamo, questo aspetto. Diciamo che è mancato, come ho scritto con l'Economy, quella rivoluzione industriale che all'estero che è accaduta, e hanno capito perché erano indietro rispetto all'Italia. Hanno capito che non potevano... Io su questo ho una tesi più radicale di voi, perché naturalmente essendo meno tifoso e meno... No, è più radicale. Cioè, la mia opinione è che, guardando da osservatore, come nel tempo noi abbiamo accumulato alcuni interventi dei regolatori politici e quelli finanziari intorno a alcuni presupposti che altrove sono il pilastro attraverso cui si realizza poi la gestione economico-finanziaria orientata al profitto, e quindi che dà solidità al sistema, che dà autonomia al sistema, che dà forza al sistema, che cioè ne alza la capacità di investire in tutto ciò che deve essere un sistema che sta in piedi, le squadre giovanili, la dimensione della comunicazione sociale e così via. Tutto quello che in Italia manca, perché non ci sono i soldi per farlo. Dopo che ho visto nel tempo gli interventi di questo tipo, tu hai appena ricordato come funziona, come ha funzionato per lungo tempo il meccanismo di incentivo fiscale per chi ci metteva pochi soldi. Ricordiamo come si realizza il più dei soldi in Italia. Il più dei soldi si realizza da merchandising, attività commerciale, eccetera, eccetera. No, tranne quelli televisivi, si realizza dalla possibilità di poter fare finte plusvalenze con un mercato parallelo di cui tutti sappiamo tutto, perché viene alla luce del sole, dei cartellini di giocatori che magari neanche entrano in campo, perché questo è il fatto. Grazie poi a concessioni che sono avvenute nel tempo di poter protrarre, come nessun'altra società può fare, il conto all'INPS per il pagamento dei contributi sociali, eccetera, eccetera, le sanatorie che sono più volte intervenute su queste materie da parte del legislatore, le eccezioni rispetto alle concessioni civilistiche di come si fa un bilancio date al calcio, la possibilità di quotarsi in borsa senza avere asset come invece avveniva in tutti gli altri ordinamenti europei. grazie a tutto questo la politica ha costruito queste eccezioni. Arbitraggio politico, arbitraggio fiscale, di fatto inciuccio. Cioè, sì, sì, lo sappiamo che i numeri del calcio italiano sono numeri non industriali, ma fondamentalmente ci politici. Ci sono i piccoli RAS che non investono nulla e vanno solo coi cartellini a fare il bilancio, perché gli è stato consentito, grazie a tutte queste eccezioni, di farlo. Sbaglio, Marco? Assolutamente no. Guarda, in questi 10 anni, in cui appunto si è verificato quello che vi ho detto, cioè la crescita altrove, e da noi siamo rimasti indietro. Siamo rimasti indietro perché mentre gli altri facevano gli stadi, investivano sui vivai, noi... investivano sul merchandising, se vuoi guardare la storia di questi 10 anni, in qualche modo me l'ho raccontata, siamo passati appunto dalle mega plusvalenze agli spalmammortamenti, alle vendite dei marchi a società controllate per fare ricche plusvalenze, anche qui contabili. Col prezzo di arbitraggio, certo. Esattamente. Quindi diciamo, ci siamo impegnati in queste vicende, gli altri hanno creato un'industria e noi siamo ritrovati alle soglie, diciamo, della grande crisi finanziaria e della situazione drammatica, diciamo, dell'economia anche italiana, che si è venuta a creare alla fine tra il 2008 al 2012, una crisi che no, in queste tuttora... condizioni che sono descritte da questi numeri. Traffico, e torniamo tra un minuto. Della belva. Ed eccoci qui tornati con i compagni dei Conti della Belva e Marco Bellinazzo collegato con noi. Mi pare di capire però, caro Alberto, Marco, che voi andate d'accordo su tutto, caro Alberto. Cerchiamo di differenziarsi, perché qui è Marco che non tifa per l'Italia, non ho capito. No. Cioè, io ho detto chiaramente, no? Deutschland über alles dal punto di vista del calcio. Prego, Marco. No, ora volevo aggiungere un'altra cosa, come dire, giusto per darci l'ultima marciata. Ecco. Però poi, come dire... Parto in contropiede. Okay, parto in contropiede e provo a difendere l'Italia. Aspettati di tutto, caro Marco. L'ultimissima cosa che volevo dire è questa: in quello scenario gravissimo che stavo descrivendo prima del traffico, siamo arrivati al punto in cui sostanzialmente sono stati eliminati i parametri contabili, diciamo, di fatto per iscriversi al campionato. Esatto. Il calcio è un settore economico a sé stante, una specie di limbo finanziario fiscale in cui tutto è permesso. Sostanzialmente ora la federazione è intervenuta dopo il caso Parma, vi ricorderete, lo show di Mamenti, finti russi che volevano comprare la società a Cipro e quant'altro, che ha portato al fallimento un club che si era miracolosamente salvato dal più grande disastro finanziario della storia dell'economia italiana, mi riferisco a Parmalat. Dunque, bastava pagare gli stipendi fino al 31 marzo, gli stipendi e le ritenute dell'anno precedente, per potersi iscrivere al campionato. Quindi tutte le altre cos'è accaduto? Che i presidenti non pagavano tutti gli altri creditori, e quindi l'ammontare del debito del calcio italiano è cresciuto fino ad arrivare a quasi a superare i 3 miliardi di euro. C'è un altro dato, visto che ci piace raccontarli, il confronto tra Italia e Germania, anche qui a favore della Germania, c'è un elemento molto significativo che indica lo stato di salute di un club e in generale di un calcio, e cioè il rapporto tra quello che tuo fatturato e quanto paghi in stipendi. Ebbene, il problema finanziario che la normativa UEFA impone di avere un limite, diciamo, al 70% per appunto indicare uno stato di salute di un club. Noi siamo arrivati negli anni 2000 ad anni in cui si superava il 100%, cioè quindi molto di più del fatturato andava via solo in stipendi e in gaggi. Ovviamente i tedeschi hanno una regola aurea per cui non si spostano dal 50%. Questo fa sì che i club tedeschi guadagnino in media 100 milioni all'anno, grosso modo, e noi ne perdiamo circa 300 milioni all'anno come Serie A. Questo, diciamo, sono le regole alle spalle dei due sistemi che entrano in campo stasera. Poi possiamo parlare, se volete, insomma, di qualche aspetto positivo, di qualche luce in fondo al tunnel e provare, insomma, Devo parlare di impianti e di diversificazione dei ricavi, cioè di calcio come fattore istituzionale. A me piace, il calcio è un pezzo importante dell'identità della nazione, grazie Oscar per aver ricordato Tardelli e Rivera. Il calcio è una forma di cemento nazionale, specialmente questi questi momenti così difficili in cui si fa fatica a trovare agganci, per me è importante tornare invece al tema degli impianti e le infrastrutture. Dobbiamo confrontare anche quelle due cose. Ci torniamo sopra più tardi. Ci torniamo immediatamente dopo il Giornale Radio. Rimanete con noi. Franco Schipani, Alessandra Fiori, buongiorno. Tintarella di luna, tintarella tu non latte. Alessandra Fiori e Franco Schipani ci tengono compagnia per tutto il mese di luglio con Mix 24 Estate, raccontandoci gli anni 60 e 70 attraverso la musica e la storia. Tutte le mattine alle 9.30 su Radio 24. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Della belva. Ed eccoci tornati in diretta 11.7 primi e 2 secondi in questo 2 luglio, in questo 2 luglio in cui per milioni di italiani il 2 luglio è solo un'attesa perché arrivi le 21 e si entri nella sfida diretta dalla Germania di calcio. Abbiamo parlato un po' di numeri del, ohimè, situazione pregiudicata del, su alcuni presupposti fondamentali dei numeri del sistema calcio economico finanziario italiano rispetto a quelli tedeschi, perché è così che si costruisce la forza e la solidità anche di un sistema sportivo, e riprenderemo da dove ci siamo fermati sull'importanza degli impianti, perché Marco Bellinazzo è rimasto con noi collegato, ma intanto sentiamo alcuni di voi. Cominciamo con Andrea che ci chiama da Padova. Andrea, prego. Sì, buongiorno. Io sono tornato ieri da Berlino. Sì. E la mia impressione è questa. Beh, tutti aspettano la partita anche lì esattamente come da noi. E poi di un paese che, allora, economicamente sono usciti da loro i dati sulla disoccupazione e hanno il minimo di disoccupazione da 30 anni a sta parte, col 5,9%, che è un dato che anche loro non avevano mai. Allora, dico io, abbiamo poco da dire noi sulla Germania che deve cambiare sulla base delle nostre indicazioni. Loro vedono e il loro modello funziona, cioè 2,6 mi pare, 2,8 milioni di disoccupati, che è il minimo storico loro da 30 anni a sta parte, è uscito il dato in settimana. Perché devono cambiare e fare, spendere di più, più deficit, più tutte queste cose qua? Cioè non lo faranno mai, punto, è inutile che ci siano tanti discorsi. L'altra cosa invece è questa, ho trovato un paese, come dire, impaurito dal discorso immigrazione, cosa che mi sono stupito anch'io, era un po' di mesi che non andavo su, e effettivamente anche ero a Berlino e a Düsseldorf, dei quartieri, io mi ricordo 10 anni fa in Germania, non c'erano tanti extracomunitari e comunque il problema non era sentito, adesso sì, ci sono dei quartieri anche lì che mi sembra che siano quasi fuori controllo, solo di turchi o di altre cose, e di quello se ne parla ovunque, quindi da un lato un paese che si sente economicamente forte, ma dall'altro lato che si sente impaurito da un'onda che, mentre nei problemi normali loro hanno il loro modello, qua io ho l'impressione che anche loro... Un milione solo l'anno scorso, e la situazione politica è cambiata da quando poi ad agosto dell'anno scorso la Kanzlerin aprì senza preventivo concordare con l'Europa, e poi è successo quello che è successo. In effetti la scommessa alle prossime elezioni politiche l'anno prossimo in Germania e quanti voti riesce a erodere dal blocco SPD e CDU-CSU Alternative für Deutschland, che oggi ha fatto la questione degli immigrati rispetto a quella su cui era nato, cioè il no all'euro per condividere e dare soldi ai latini, la vera questione di fondo, come ci ricorda il nostro ascoltatore. Sentiamo ancora Gianluca dalla provincia di Ravenna invece. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Prego. Vorrei intervenire a proposito dei giocatori italiani che non ci sono nelle squadre italiane e dei settori giovanili. Ma io credo che il problema purtroppo sia semplice, sia uno specchio di quello che accade nel nostro paese. Penso che i presidenti acquistino giocatori stranieri, extracomunitari, nel Sud America e in Africa, perché lì nessuno dà un riscontro di quanto realmente spendono. Per cui compro 10, in realtà io pago 5 e faccio 5 di nero che mi vengono versate le isole Cayman. Questo credo sia il vero motivo, uno dei motivi principali comunque, del fatto che non ci sono italiani. Ma che pensiero cattivello, caro. Ma come fa? No, ma lei pensa che siano così intelligenti? Ma no, veramente proprio mai, guardi. Va bene, grazie comunque, buona giornata. Grazie a te Gianluca. Allora, caro Alberto, stai parlando degli impianti. Sì, perché vedi, gli stadi sono, e lo devo dire nel giorno in cui l'Italia riprende il bel Colosseo di Roma, dopo un restauro intelligente finanziato da privati, plauso a un modello di collaborazione pubblico-privato che finalmente ha prodotto una cosa che per noi è un orgoglio nazionale, è un pezzo dell'identificazione dell'Italia nel mondo. Gli stadi sono cattedrali laiche, caro Oscar, di questa religione popolare del calcio. Sì. Lo abbiamo ben visto con i cinesi, cosa hanno fatto con il modello di ristrutturazione degli stadi, che sono diventati forme di architettura simbolica, ma non solo, sono il motore vero della sostenibilità del calcio. Non so se Marco è ancora in con noi. Ecco, perché diciamo dobbiamo fare due numeri, no? In particolare gli impianti in Germania sono stati completamente ripensati nel 2006 con i mondiali, e da quel momento in avanti la partecipazione agli stadi è stata più 38% in Germania e meno 22% in Italia. Il prezzo medio, questa è una cosa interessante, il prezzo medio del biglietto in Germania paradossalmente è molto inferiore all'Italia, diciamo 20 euro e qualcosa. In Italia è il 30% in più, anche perché là hanno... Perché sono più comodi. No, però. Al contrario, hanno circa un terzo dei posti in piedi. Per quello costa di più da noi, esatto, perché 12 sono tutti euro, seduti. Pensa appunto, 12 euro per andare a vedere la partita in piedi, ma è stato un modello importante perché, giusto per citare il caso più importante, la Allianz Arena, frutto di quella collaborazione scientifica fra grande organizzazione manageriale che ha sostituito e commissariato il management impreparato e nepotistico delle squadre di calcio con business, con project financing, business plan molto rigorosi. L'Allianz era un caso straordinario, 275 volte consecutive di sold out dal 2007 al 2015, una cosa incredibile, con fondamentalmente gli effetti che si vedono. Quindi quando parliamo di fatturato, che è l'effetto finale, dobbiamo parlare di cause. Qui la causa è stata una politica urbanistica e scientifica di usare gli stadi di calcio come veri e propri poli attrattivi della logica. Chi ci ha provato in Italia, ed è stata purtroppo, lo dico da milanista, la Juventus, ci è riuscita benissimo. La Juventus con una cifra che è la metà di quella che è stata spesa all'Allianz Arena, cioè circa 150 milioni, insomma, contro gli oltre 300 milioni, 346 milioni spesi all'Allianz Arena, è passata dal 2016 al 2015, quindi in soli 4 anni, da 11 milioni di fatturato a 51 milioni di fatturato, da 22.000 persone mediamente a 38.600 persone mediamente, e da 15.000 abbonati a quasi il doppio. Questo, quindi chapeau alla squadra, chapeau ad Andrea Agnelli. Anche se la stessa Juventus resta ancora lontana dal proporre un modello in cui gli stadi, al di là e oltre l'utilizzo negli eventi sportivi, diventano vero, dei grandi mall, certo, infatti il modello tedesco, aperti sempre, modello tedesco, 7 giorni su 7, diversificazione degli introiti fra match day, cioè giorni della partita, e non match day, polifunzionale, centro addirittura di servizi, diventa quasi polo aggregativo di edilizia residenziale, cioè andare a abitare intorno allo stadio è diventato quasi una moda in Germania, cosa che da noi in Italia assolutamente, anzi è uno dei posti, a parte appunto San Siro a Milano, che sono una storia tradizionale, ma è un posto quasi da evitare. Ecco, tutto questo che, non, come vedete, non è solo calcio, è calcio come elemento di una scelta istituzionale di governo del territorio. Marco, qualche commento su questo? Guarda, l'idea che il calcio si faccia perdendo soldi ce l'abbiamo solo in Italia, perché altrove ci fanno utili, e appunto con politiche industriali. In Germania mi tocca anche qui non sostenere la mia parte, insomma, ma purtroppo lodare il modello tedesco, quasi tutti gli stadi sono di proprietà, quasi tutti gli impianti, in quasi tutti gli impianti hanno venduto i naming rights, cioè i diritti di intitolazione degli stadi, finanziando i progetti di costruzione degli stadi, oltre ad aver avuto ovviamente il grande volano dei mondiali del 2006, noi abbiamo perso le candidature degli europei, non solo con la Francia per il 2016, ma addirittura del 2012 con Polonia e Ucraina, per scelte, vabbè, cui stendiamo un velo pietoso, insomma, anche lì sarebbe da indagare perché. In Italia abbiamo avuto appunto il modello virtuoso della Juventus, il Sassuolo del presidente Spinci ha comprato all'asta lo stadio di Reggio Emilia, ma per stadio sta cercando di rendere uno stadio modello, l'Udinese ha preso in concessione 99 anni nel stadio e lo ha ristrutturato, però per esempio l'Udinese voleva vendere i naming rights alla Dacia e non ha potuto perché si è scontrato con una vecchia delibera degli anni 70 che intitolava lo stadio appunto lo stadio Friuli, in onore insomma dei morti del terremoto del 70 in Friuli e dell'identità friulana, e il fatto sta insomma che lodevolissimo intento, però appunto non sono riuscito a vendere i naming rights alla Dacia, hanno dovuto fare un escamotage, c'è ancora un contenzioso in atto. Il resto d'Italia è un deserto, plastici, progetti, l'esempio appunto è lo stadio della Roma, grande progetto, il nuovo Colosseo, visto che abbiamo aperto col Colosseo, è in atto un processo amministrativo da alcuni anni, siamo alla fase in cui diciamo deve riunirsi la conferenza regionale dei servizi, c'è 80 giorni di tempo, vedremo se mai questo progetto si realizzerà, e senza quello tutto il business plan della Roma americana rischia di crollare. Rischia nel frattempo di cedere la gestione, ma è questo, c'è un tale scompenso tra i tempi, però devo dire, in questo caso, non solo della pubblica amministrazione, anche delle regole del sistema del calcio italiano, e i tempi invece della realizzazione dei progetti di mercato, che poi alla fine, come gli astri nel cielo tra il tramonto e l'alba, arrivano le proprietà, dichiarano delle cose e poi se ne vanno dicendo vabbè, ma tanto si vede che non sono riuscito a fare nulla. Ecco, il rischio secondo me a Roma che finisca così è molto forte, ecco questo. Sì, il pericolo è qui che manca tra l'altro una politica come dire integrata tra iniziativa pubblica e iniziativa privata. Se si è riusciti sul Colosseo, deriva importante ma comunque limitata, non si è riusciti, cioè c'è stata una nuova disciplina sugli stadi per cercare di accelerare il progetto, di fatto poi è rimasta lettera morta, perché al di là ad accelerare l'leader amministrativo ovviamente servono risorse, sarebbe ancora lungo raccontare quello che è successo nei 3 anni, sono avuti 4-5 anni per approvare questa norma, di fatto non ancora utilizzata nessuna. Allora squadra. Diciamo che la sintesi mia da osservatore è che tra il Berlusconi politico e proprietario di un club importante, la cui decadenza politica poi del proprietario è anche la sua decadenza sportiva da una parte, e dall'altra le scelte di pericolosa commistione che hanno portato dai tempi della riforma Veltroni in poi il PD a essere non riformatore radicale del sistema, ma compiacente verso tutte le eccezioni alle norme, dal codice civile a come si quotano le aziende, per venire incontro al sistema del calcio, e perché questa è stata la scelta del PD, cari i nostri due ospiti, la somma di queste due robe, come al solito il consociativismo negativo politico, determinato le condizioni che dal punto di vista delle regole sono alla base di questo ritardo che abbiamo sin qui descritto, cioè la politica italiana si è alleata col peggio del peggio, cioè esattamente coi micro patron locali che arbitraggiano cartellini, non investono, e che sono alla base della debolezza sistemica, finanziaria, economica e dell'incapacità gestionale di avere quel limite di risorse per avere asset che autogenerano cassa da reinvestire, al di là dei biglietti delle partite, a cui a quel punto gli italiani vanno sempre meno. Questa è la mia brutale sintesi. Io intanto ringrazio Beninazzo di averci illuminato e torniamo aprendo a questo punto una finestra culturale con due ospiti un po' particolari. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Ed eccoci tornati di nuovo in diretta. Adesso abbiamo visto i conti, le regole, le tante eccezioni troppe concesse dal punto di vista delle norme nel nostro paese alla zoppia del calcio italiano. Abbiamo visto le due strade, da una parte radicale revisione dei fondamentali economici, di cosa vuol dire dare forza al sistema del calcio in Germania, e questo spiega perché poi c'è il doppio raddoppio di giocatori in campo tedeschi dalle giovanili rispetto al nostro, lo spiega anche questo come, e tante altre cose. Purtroppo non ci siamo. Da questo punto di vista, diciamo così, i sistemi alle spalle delle due nazionali che vanno in campo stasera vedono i tedeschi a tavolino batterci per diversi punti. Naturalmente poi in campo succedono miracoli, in campo uno può avere Müller e noi all'attacco un po' nessuno che vale metà del suo cartellino o un terzo, però poi alla fine in campo ci sono i Pellè e soprattutto c'è Conte, che è un animatore autoritario molto di destra, secondo me, che è la vera forza di questa squadra di calcio, perché è uno che praticamente dice ai giocatori: o mi date comunque il risultato o che peste mi colga. Questa è un po' la sintesi, però avete visto che sui fondamentali non ce n'è, i tedeschi ci battono anche nel calcio. Ma dal punto di vista culturale abbiamo scelto due ospiti in questa seconda parte della trasmissione che aggiungono il fatto di avere un rapporto particolare con entrambi i paesi, cioè con Italia e Germania, il fatto di essersi occupati di cose pubbliche, vedremo quali, e a tanti aspetti ci aggiungono anche il fatto di essere tifosi. Allora cominciamo con Anna Paola Concia. Anna Paola Concia, ex deputata del PD, ora consulente della Camera di Commercio per la Germania. Voi siete abituati a vederla battersi per i diritti civili eccetera eccetera. Quello che ignorate è che Anna Paola Concia è laureata in scienze motorie e si è occupata dello sport del PD e dei DS, cioè che lì sotto batte un cuore sportivo, non c'è soltanto la passionaria dei diritti civili, ma c'è una che poi tira di quelle, come dire, dei fendenti, delle vuole incrociate. È stata maestra nazionale di tennis e così via. Allora Anna Paola, intanto grazie di essere con noi, di accettare di parlare del cotè culturale, ma, no? Ma grazie a voi, è un grande piacere risentirvi. Grazie, allora, per l'invitata, sono molto contenta. Tu dove la vedi sta partita? Sono in palestra in questo momento. Sei in palestra. Sono a Colonia, in un albergo in palestra. In palestra. Quindi la vedi a Colonia, la vedi a Colonia stasera la partita? La vedo a Colonia, sì. Ma la vedi... dichiarando il tuo tifo italiano, oppure tu e la tua compagna vi dividete le parti? Come funziona? No, che certo, mi sono portata pure la maglietta dell'Italia, io sono impavida. Come no, io credo che la vedremo separata, adesso vediamo, perché io la voglio vedere con gli italiani. No, in casa nostra è un casino, è sempre una guerra, perché è già la seconda volta che da quando stiamo insieme che è il 2012. Quindi il calcio divide. Sì, ma siete entrambe moderatamente o più che moderatamente tifose? No, siamo tifose sfegatate. Sfegatate! Raccontaci un po' della differenza del tifo, no? Perché anch'io ero in Germania pochi giorni fa, il giorno in cui la Germania si è qualificata, e devo dire che puntualmente caroselli stradali, poi alla fine poi sul calcio ci assomigliano molto gli amici tedeschi, tantissimo. Molto, moltissimo ci assomigliano, sì, e mo' è cominciata tutta la tarantella, lei, tutti i tedeschi, allora che noi siamo la squadra dei vecchietti contro la squadra dei giovani, loro sono preoccupatissimi, hanno una paura terribile. No, la tua... Ma come, abbiamo letto che stavolta sono sicuri, abbiamo letto sui giornali. Sono sicuri, però per esempio stamattina io sono stata a far colazione in albergo, c'era un giornale che diceva la seguente cosa, l'ho messo anche su Twitter il giornale, cari italiani, già cari italiani non è male, cari italiani, vi siete divertiti abbastanza, ci sono tutte le volte che abbiamo vinto noi. E poi dice: ma adesso è il 2 luglio 2016, basta. Loro sono preoccupatissimi, cioè, prima pagina di questo giornale che racconta la loro ansia, perché loro sicuramente da un certo punto di vista sono più forti, hanno appena vinto il mondiale, insomma hanno vinto il mondiale, insomma sono una squadra forte, solida. Però loro temono moltissimo, come diciamo è nella mentalità tedesca, l'imprevedibilità italiana, sì. L'estro. L'imprevedibilità, e quindi hanno un'ansia pazzesca. Allora, a noi Anna Paola, Conte, loro lo apprezzano molto e lo temono molto. Sì, loro secondo me ne vorrebbero uno a casa loro, per così dire. Sì, lo temono molto, lo apprezzano molto e dicono, scherzando, sempre scherzando con quell'ironia che però è figlia dell'ansia, dice: ah, il giocatore più forte non sta in campo. Non sta in campo, no? Ma secondo me è drammaticamente vero, ma è il pezzo più evidente della verità, perché lui riesce, giocatori che nel campionato italiano non si è mai visto, arriva Conte che, come evidente, li guarda, come dire, vi spacca attacco in due, e questo improvvisamente scatta, tira, go. C'è delle cose che sono mai viste. Però io la cosa che chiedo a te, Anapa, noi abbiamo dovuto per 40 minuti raccontare i fondamentali dello sport in Germania, e c'è poco da fare. I fondamentali di come funziona il calcio e lo sport in Germania, ohimè, sono per noi un'umiliante lezione. Cioè, magari anche da noi fosse così, no? Allora, come si fa? Beh, io ho concluso dicendo che secondo me la politica ha commesso un grave errore. Da una parte c'era Berlusconi, che essendo proprietario di una squadra importante, come al solito creava un problema, come veniva parlato da Vesuvio. Ma dall'altra, le scelte retrospettivamente fatte dal PD, la riforma Veltroni e così via, a me sono sempre sembrate troppo compiacenti verso gestioni allegre del calcio, abbiamo ricordato ai nostri ascoltatori come funziona lì, e qua invece eccezioni al codice civile, eccezioni... bisogna voltare pagina. Allora, no? Sì, guarda, sì, insomma, intanto il calcio, per esempio, un piccolo appunto su quella squadra che è oggi, loro hanno fatto un grandissimo investimento di milioni di euro sui vivai, esatto. E essendo la Germania un paese dove vivono tantissime nazionalità, quindi anche tantissimi potenziali talenti, e loro oggi si ritrovano con la squadra in Sudafrica. Quella squadra lì perse perché era l'inizio di quel percorso, e poi sono arrivati a vincere campionati del mondo. Detto questo, veniamo a noi. Noi, secondo me, le quotazioni in borsa delle società sono state una cosa che non è stata gestita bene. È stata sopravvalutata, secondo me, questo insomma me lo ricordo, so io, come sai, appunto, certo. è il mio mestiere, adesso mi occupo di internazionalizzazioni, ma comunque ho sempre fatto la manager sportiva. E secondo me è stata sopravvalutata la classe dirigente del mondo del calcio. Bra. Non so se siete d'accordo, sì. Perché noi, diciamo, ma lo dico con rispetto, ecco, diciamo che abbiamo avuto, probabilmente adesso le cose stanno cambiando, ma una classe dirigente delle squadre, dei club. Insomma, non all'altezza di, diciamo, cioè non è che si può paragonare i Gaucci padre e figlio ad Allianz, che sta, ecco, voglio dire, sì, per appunto, essere chiaro, non so, il Dortmund, insomma, che hanno fatto delle cose straordinarie, poi per carità pure loro hanno il presidente del Bayer sta in galera attualmente, ancora. Per carità, per cose sue però che riguardano lui personalmente. Dopodiché questo è è un fatto, cioè probabilmente, diciamo, noi abbiamo avuto una classe dirigente dei club non all'altezza delle quotazioni in borsa. E dopodiché c'è un altro elemento, secondo me, che è quello del fatto che il mondo dello sport, e il mondo del calcio in particolare, questo io l'ho sempre detto, si sente mondo a parte. In Germania non è così, sia sul piano sociale che sul piano economico. Cioè noi, il mondo del calcio ha regole sue, è un po' fuori da, diciamo, dalle regole, no? Sì. E questo è un fatto negativo, mentre qui non è così, sia sul piano sociale, insisto, che sul piano economico. Certo. Il calcio, essendo, diciamo, la grande passione dei tedeschi, ha delle responsabilità sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. Però non è un mondo con avulso da quello, dal mondo normale, no, come è diventato nel nostro paese. Non era così fino agli anni 70 in Italia. Cioè, io adesso voglio dire, io ormai sono un vecchio, ma era evidente che giocatori che facevano la forza d'Italia negli anni 60 e 70, cioè poi il povero Meroni che morì a Torino, ma anche Gianni Rivera che veniva, tutta quella generazione lì, erano giocatori che venivano da un'Italia sostanzialmente quasi sempre povera, che non perdeva la testa, che aveva allenatori a propria volta espressione di un'Italia a volte agropastorale, voglio dire Rocco per così dire, però che li teneva fermi a un mondo che era l'Italia normale, ecco, non era l'Italia di questi che adesso girano il mondo come se fossero Jobs. Oggi quelle figure sono i nuovi tedeschi che sono i figli di seconda generazione. Ti faccio l'esempio, c'è quattro pagine dedicate a Boateng su Stern, una rivista importante. Perché un membro della AfD, cioè del Alternative for Deutschland, partito insomma quello a destra, autarchico nazionalista contro gli immigrati, nazionalista, dice che vorremmo il capo di quel partito, ha detto Boateng io non lo vorrei come vicino di casa. Si è scatenato l'inferno, ovviamente, ma un inferno, no? Cioè, Boateng è un uomo molto carino, molto per bene. Insomma, quella è una persona normale, ha due figlie gemelle, e quello di cui parli tu, cioè quell'immaginario, quell'immagine oggi la danno la danno gli immigrati di seconda generazione. Se pensiamo invece che in Italia, da questo punto di vista, se penso alla parabola di Balotelli, un disastro, perché Balotelli in realtà ha eternato nella testa di molti italiani, a prescindere dalla politica, l'idea: ma guarda questo, un privilegiato che poi alla fine non mantiene mai le promesse. Per dire, sì, faccio proprio la differenza. Ecco. Boateng è esattamente il contrario. Esattamente, ma il contrario. Io lo dico con affetto. Certo. Io non mi permetto nemmeno io di giudicare né sportivamente né personalmente. Però l'effetto che è arrivato alla gente, stiamo parlando di quello. Sì. Ecco, esatto. Allora, sì. Grazie Anna Paola Coscia, resta lì perché adesso, dopo la pausa di un minuto, abbiamo la tua controparte di un tedesco che sta in Italia. Invece, il nostro amatissimo Udo Gumpel, dico amatissimo perché è una delle poche sponde che consente alla mia vita professionale di andare avanti. Anche il panorama. Sì, anche il panorama. Forza Udo! Forza Udo! Allora, torniamo tra un minuto. State ascoltando un programma offerto da Helios Patient Portal, è il portale paziente della sanità. Vai su helios24.it. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Allora, eccoci tornati con i compagni dei Conti della Belva qua in studio. Mario. E Carlo Alberto. E con noi collegata anche Anna Paola Concia, che abbiamo sentito. Salve. Abbiamo sentito, sta da Colonia, vedrà la Colonia la partita, però separata dalla sua compagna, ognuno con le tifosi delle rispettive nazioni di appartenenza. E Udo Gump, il giornalista corrispondente dell'Italia per la rete televisiva NTV. Ma tu dove la vedi? Innanzitutto Udo, la vedi tu la partita stasera? Certamente, io adesso sono a Brembate di sopra perché sto seguendo il caso del tredicenne di Aragambirasi, che è abitante qua a Brembate di sopra, e sto facendo una ricostruzione di queste indagini molto molto importante, perché proprio nel mondo è l'indagine che ha avuto la più estesa, intensa ricerca utilizzando il DNA di tante persone. Mi pare che furono testate più di 22.000 persone. Esatto. Allora, questa è la ragione per cui mi trovo qui a Brembate di sopra, appena finito un temporale pazzesco, e adesso facciamo qui la non la ricerca della donna, della persona che ci piange in camera, ma una ricostruzione quasi scientifica del lavoro investigativo. È quello che mi ha affascinato del caso. Paola, che mi ascolta, che saluto affettuosamente, sa che la Germania, tutti gli altri paesi al di fuori d'Italia, non hanno mai conosciuto questo caso, e sanno nulla di questo caso, e io appunto mi interesso proprio per questa ragione. Però allora, devi parlarci del DNA calcistico, Udo, devi parlarci del DNA del calcio. Caro Oscar, dato che il calcio è naturalmente materia sempre dove i luoghi comuni si sprecano, e io sono anche noto come dottor Precisino, io devo naturalmente precisare una cosa che ho sentito poc'anzi: il presidente del Bayern Monaco non è in carcere perché lui aveva fatto, come voi ben sapete, quattro anni fa è stato scoperto che lui aveva fatto una truffa fiscale speculando in Svizzera su conti segreti. E a parte il fatto che ha perso tantissimi soldi, lui dopo un anno di processo era già in galera, ha scontato la pena e adesso è in semilibertà. Comunque lui si è dimesso immediatamente da tutti. Esatto. Ma guarda che questo voleva dire Anna Paola. No, perché comunque non è in galera attualmente, e soprattutto quello che mi è piaciuto molto, la differenza: le società di calcio in Germania non sono società per azioni, sono ancora quel classico sistema delle società sportive dove 3, 4, 5 mila soci del Bayern Monaco decidono, confermano un Rummenig, un Beckenbauer e queste persone. Dunque non è l'azionista cinese e arabo che compra. E se un'azienda abbiamo ricordato che nel sistema del calcio tedesco è proibita la proprietà. Esatto, credo che sia molto importante e anche a collegare, mantenere, e che il tifoso può essere anche tra virgolette coproprietario, non nel senso dell'azionista ma nel senso antico del socio della società, paga i suoi 100 euro all'anno, allora decide anche lui il destino. Mentre rispetto ai luoghi comuni, È chiaro che un luogo comune, voi lo sapete, che ancora oggi lo sento continuamente da parte di gente che di calcio capisce poco, che sono i panzer tedeschi contro i virtuosi italiani. Se vediamo oggi in realtà l'evoluzione del calcio anche tedesco, mi fa molto piacere vedere che i tedeschi sono mingalini piccoli, a parte di Hummels e Boateng e Gomez, che sono centrali oppure difesa, però si distinguono per l'alto livello tecnico del calcio. Dunque oggi il calcio tedesco è forse nel mondo, insieme a quello spagnolo, è quello che ha il più alto livello tecnico dei suoi giocatori. Ma io, infatti, uno, ti posso garantire, no? Che i tifosi italiani si augurano che aspetto. Alla Germania stasera sia riservato lo stesso esito che la nazionale di Conte ha riservato alla Spagna, tale qua. Io comunque avevo parlato stamattina con Angela Merkel, come tutti sanno che io sono il suo portavoce diretto, io ho fatto questa proposta, dai, allora, le banche italiane sono nella situazione che è quella che sono. E allora 360 miliardi magari sono tutti quelli crediti che sono in sofferenza, 200 quelli persi per sempre. Ho detto, ma Angela, perché non cacci 150 per tranquillizzare? E facciamo un dote. Ogni 90 anni l'Italia vince in una competizione che conta contro la squadra italiana, in cambio perdoniamo almeno 200 miliardi. La Merkel è un po' tirchia, la sapete, fa i conti, c'ha Schäuble addosso, e così... E allora è un altro di quei cattivi tedeschi, no? E allora per non essere messo sotto da Schäuble, perché lui cammina forte con le sue e con la sua rota, no? Dio, Schäuble mi mette sotto, mi pesta il piede, allora facciamo 150. Questo è già stato fatto. E allora la Germania è andata in avanti, ha messo 150 miliardi per le banche italiane e adesso ci aspettiamo stasera noi abbiamo fatto il DES della squadra italiana. Mi sembra che sia un accordo, assolutamente accettabile. Ok, invece che 4-3 perderete 1-0, facciamo così. Facciamo un 3-2 per la tedesca e ai supplementari, no? Così l'onore italiano è salvato. La squadra più anziana del torneo, età media 32 anni, perde contro quella più giovane, 22 anni, età media. Dunque alla fine dei supplementari non ne fanno più i giocatori italiani, così almeno abbiamo anche una spiegazione. Udo deve diventare il pilastro della trasmissione, seria e satirica insieme, questo è il mio grande sogno. Senti, però almeno Conte piace alla stampa Conte tedesca, ci sta, dai, no, scusa. Udo. Conte piace tantissimo, ammettiamo la cosa, Conte piace da morire in Germania. Uno non si annusa perché evidentemente conosce i suoi autori, no? Non si tocca, non annusa. A differenza dell'allenatore tedesco. Non si mette le dita nel naso, esatto. Cioè, Conte... Non si mette le mani da tutte le parti. Certo, lui atleticamente non è proprio il top, perché la figura insieme, insomma, lasciamo stare, lui si ferisce nelle sue feste, va benissimo, questo è un pugile che va veramente... Cioè, noi adoriamo la tattica, adoriamo la strategia, no? Sì. La strategia la Germania non conosce, che perde sempre, però la tattica è fantastica. Lui indovina, ha un parco giocatori che singolarmente non valgono neanche uno dei tedeschi. Ma è riuscita a fare squadra. Quello che la Germania ha fatto 30 anni fa, non aveva i giocatori a livello tecnico dei brasiliani, italiani, spagnoli, però, ma sapeva fare squadra. Oggi la Germania ha un problema anche politico, la supponenza, la spocchia, insomma il renzismo, ovvero pensare di far pensare... La Germania ha un problema di renzismo! No, ragazzi! Uno for president, scusate. No, adesso dobbiamo dare il diritto di replica ad Anna Paola Concia su questo, vabbè. No, ma ammettiamo le difficoltà. Il vero problema di questa squadra è che sa giocare benissimo, però delle volte si innamora troppo delle proprie gesta. Allora è come un presidente del consiglio che ignora anche la realtà degli altri, perché non sei mica da solo in campo, devi tener conto degli altri, e allora tu sei talmente innamorato della tua bravura, dei tuoi anni, dei tuoi amici, dei suoi amici, e allora a questo punto e ti perdi in un bicchiere d'acqua. Allora, arrivano quelli panza italiani e si mettono sotto. Anna Paola, replica Anna Paola all'argomento di Udo. Intanto Udo sei meraviglioso, io lo amo moltissimo, lo leggo sempre. Ma è vero, nel senso che loro da quando hanno vinto i mondiali sono andati fuori di testa, questo è verissimo. Per cui adesso c'è un'esaltazione, però con noi c'hanno il problema, cioè siccome, come dicevo prima, siamo imprevedibili e allora c'hanno un'ansia pazzesca, dicono siamo i migliori, però sanno che c'è quell'imprevedibile che con noi Paolo, e poi loro hanno un karma. Ma cioè, però Anna Paola, guarda che stasera è il contrario, stasera l'Italia è prevedibilissima e il tasso tecnico, quello della fantasia, è quello tedesco. Fammi dire che invece Conte è il più tedesco degli allenatori italiani e ha fatto una squadra assolutamente tedesca, cioè catenaccio, e appena c'è un pertugio facciamo una esattamente. Lo so, però loro rischiano l'arroganza, come dice Udo. Come rischiano che siccome sono i più giovani, siccome sono i più forti, siccome sono i campioni del mondo, ormai basta, no? Come diceva comunque il giornale, la sintesi mia, e io questo loro vuole... hanno un karma con l'Italia, esatto, lo so, il karma è finito, non ce l'hanno più il fantasma appollaiato sulla spalla. Però quello a cui volevo arrivare oggi, e secondo me l'esperimento è riuscito, è che con un italiano e un tedesco, il tedesco che vive professionalmente in Italia e l'italiana che vive professionalmente e sentimentalmente in Germania, con un po' di ironia, perché ne sono dotati entrambi, e con un po' di spirito critico, oggettivo, attento alle cose, come vedete, si può fare un dibattito tra Italia e Germania, dallo sport alla vita pubblica, senza darsi addosso e riconoscendo noi i grandi meriti, perché dallo sport come nella finanza e nell'economia è così, della Germania. E dall'altra parte la Germania sentire dire che persino i tedeschi hanno un complesso di superiorità che si chiama renzismo, cioè si sentono ormai troppo superiori agli altri. Voi capite che da questo punto di vista l'esperimento Gumpal Concia, secondo me, dice che questo è un format della trasmissione che coltiveremo. Ma ripetuto assolutamente. Che coltiveremo, io ringrazio entrambi, noi torniamo tra un minuto. Della belva. Ed eccoci tornati per questa ultima parte di questo Conti della Belva, che abbiamo dedicato in gran parte appunto allo scontro di calcio, gli europei stasera, Italia-Germania. Tra l'altro sono dimenticato di chiedere a Udo comunque la sua reazione di fronte al fatto che il Sudtirolo italiano, cioè la provincia autonoma di Bolzano, chiede la nazionale del Sudtiroler italiano, quindi siamo oramai anche qui. Vedremo cosa succede tra Scozia, Catalogna e il processo che sta rompendo l'Europa. Io devo dire la verità che ho tifato intensissimamente Galles e adesso vediamo, io mi auguro che Galles continui ad andare avanti, c'è un grandissimo campione, beh, devo dire la verità. Ed è con noi Renato Cifarelli. Come stai, Renato? Bene, voi come state? Noi siamo qui che ci siamo divertiti. Oggi parliamo di una cosa di cui io non capisco quasi nulla praticamente. Beh, noi ci siamo occupati di quello di cui invece sappiamo, insomma, l'economia del calcio, non ci mettiamo a fare lezioni di tanto. Io intendevo dell'economia, che non me ne intendo. La pianta, la vedi tu la partita o sei in moto sull'Harley Davidson? Io stasera sono probabilmente in altre faccende affaccendato, perché domani viene quella persona che mi piace tanto andare a sentire a San Siro. Lo so. E quindi le code iniziano leggermente prima. Che ne fa due? Alle 8 c'erano 240 persone in coda, quindi non so poi come ci arrangeremo stasera tra springsteiniani per vedere la partita. Lo so, la vedrete sui telefonini, per così dire, perché non c'è alternativa. Comunque diciamo che non sono un grandissimo tifoso. Ecco, tu appartieni a una generazione per la quale, dovendo scegliere la tua verdissima età tra stare in coda per andare domani a sentire il boss per Springsteen e la partita, non hai dubbi. E questa è un po' le caratteristiche della generazione alla quale appartengo anch'io. Naturalmente questo significa però non tirarsi fuori dal grande tifo nazionale, il calcio lo sappiamo. No, ma poi io non voglio fare quello che dice, esatto, che non guarda il calcio, esatto, che esatto, il calcio non gli interessa, eccetera, le partite, poi soprattutto la nazionale guardo, sono abbastanza poco interessato al calcio in quanto sport, esatto, per, che tutto sommato secondo me le implicazioni economiche negli ultimi anni hanno un po' superato con la parte sportiva. No, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Però questo però è un altro discorso. E allora, oggi venendo a noi, volevo sì raccontare di una, volevo fare una cosa sindacale oggi. Ah. Perché succede questo. Allora, i tribunali, non so voi, ma io comincio ad avere grosse difficoltà. Mm. Perché escono le sentenze, poi vanno al TAR e dice una cosa diversa, al tribunale quello in Cassazione dice una cosa diversa, al tribunale ordinario dice una cosa diversa, poi c'è il tribunale sportivo che sappiamo che è un'altra cosa. Cioè, qui io con tutti questi tribunali non ci capisco più niente. Mm-hmm. E non ci si capisce più niente talmente tanto che a questo punto cosa stanno facendo? A fare l'amministratore delegato, che dovrebbe essere il mestiere di quello che fa tornare i conti e organizza le aziende, della pedemontana, sapete chi ci mandano? Di Pietro. Di Pietro? Cioè, sì. Stanno per nominare Di Pietro come amministratore delegato della pedemontana, ma non tanto per portare avanti il e lo nomina Maroni, no, per arrestarli tutti. E lo nomina Maroni. Cioè, ma non per portare Maroni avanti il business. Perché è l'unico che ci può capire qualcosa in tutti i casini che hanno fra gare, non gare, rimborsi, richieste di rimborso, cose che hanno in tribunale, eccetera, eccetera. E questo credo che ormai dia la misura di cosa vuol dire fare l'imprenditore, perché chi fa l'amministratore delegato poi alla fine, che sia un manager o che sia direttamente l'azionista, è chi fa l'imprenditore, no? Certo. E se noi arriviamo al punto per cui dobbiamo mettere a guidare un'azienda uno che ha una provenienza da giudice, cioè ha una formazione prettamente, diciamo, legale, capite che c'è qualcosa che non funziona, perché io lo so, però vedi, da questo punto di vista, Renato, il vero interrogativo è: il mondo delle opere pubbliche, delle gare pubbliche, degli appalti pubblici, in questo grande trapasso tra le vecchie regole e le nuove regole, sai perfettamente, ne abbiamo più volte parlato, sì, c'è il nuovo codice. Ieri, tra l'altro, mi ha molto colpito le prime valutazioni dell'ANCE, costruttore italiano, sono che con le nuove regole i lavori subiscono ulteriori ritardi del 70%, cioè una cosa concepita per essere più trasparente e più rapida, invece pare che stia ottenendo effetti opposti. Lì il livello strano di strano in Italia, strano, di punto, succede l'opposto. Però il livello oramai di concrezione e sedimentazione delle norme e dei diversi apparati dello Stato, anche ai fini della trasparenza e della giustizia che intervengono, perché il ruolo dell'ANAC è un ruolo superfetato ma che si aggiunge a quello dei controlli di giurisdizione amministrativa, di giurisdizione ordinaria, è tale che io per certi versi quasi lo capisco. Cioè, tanto vale mettere bandiera bianca e dire: sei un magistrato fuori dai ruoli e vieni a farci la presidente, perché altrimenti non ne possiamo più. Tutta la logica Cantone, per così dire, è una logica che si è sviluppata in realtà in questo senso qui, cioè noi abbiamo aggiunto un super sceriffo senza cambiare le norme del codice prima, eventualmente la correggiamo un po' dopo, proprio con questa logica qua. E quindi del resto abbiamo tutti noi, Renato, nella nostra vita l'esperienza invece di amministratori pubblici che per paura non firmano più niente, non prendono più una decisione. Come si esce da questo? Però il problema, secondo me, per come la vedo io, è che è un ulteriore passo verso il baratro. Perché, è un ulteriore passo verso il baratro. Perché se noi siamo costretti, io una cosa che dico da una vita, se noi siamo costretti a passare più tempo a occuparci di carta, di autorizzazioni, di tasse, di come pagare meno tasse, di tutte queste cose qua, non abbiamo poi il tempo di sviluppare il business. È così. Cioè, non abbiamo il tempo per metterci lì a pensare a come fare. Io ho sempre detto, allora, invece di farmi perdere una marea di tempo su come pagare tasse, cercate di lasciarmi il tempo di fare più utile. Che magari ve ne pago anche di più. Che ve ne pago di più di tasse, no? Perché questo è il concetto. Cioè, a me quello che fa veramente paura è che ormai non si riesce più ad avere delle aziende che riescono a lavorare in un modo abbastanza normale, diciamo, come no, succede quindi, nella maggior parte degli altri paesi. Quindi normale c'è poco, anzi lasciami dire Renato che se questa settimana una cosa mi ha lasciato perplesso, io non voglio dare giudizi, però perplesso, è che dopo settimane in cui gli azionisti di Unicredit avevano deciso di esporsi con le viscere ai denti del mercato, perché non prendere decisione nella grande banca che è l'unica SIFI europea come livello sistemico proprio di questi tempi, con Brexit di mezzo, non è stata una prova di lungimiranza, e alla fine hanno scelto un capo azienda che uno dice, ma se azionisti Unicredit, boh, ma che messaggio vogliono dare? Hanno scelto un azionista il cui passato in Società Generale alla fine si è interrotto per un incidente grave, cioè il caso Kerviel, sì, sì, beh, e che diciamo, poi è venuto in Italia, non l'ha presa benissimo, ma sempre da banchiere, però d'affari, quando il problema di Unicredit riguarda il retail, riconcepire le reti, e i suoi problemi fondamentali sono quelli, e quest'uomo non se n'è mai occupato professionalmente nella vita. Ne scelgono uno, mi fa anche piacere, che non è in grado attualmente di capire e interagire con la lingua che si parla in questa amministrazione, dove si parla in italiano, vorrei dire, nel consiglio di amministrazione di Unicredit. Non è una cosa di cui essere fieri, ma è così, piccolo problema, lui non lo parla, non lo so, scelte di fronte alle quali, altro che Di Pietro tutta la vita alla Pedemontana come presidente, lì stiamo parlando di Unicredit, Renato, questo è il mio giudizio. Carlo Alberto che dice, magari mi sbaglio su Unicredit. Mi auguro che parli, mi auguro che parli una lingua diversa di innovazione e di trasparenza, che vuoi che ti dica, non è una questione di linguaggi nazionali, è una esatto. banca e come tutte le nostre ha bisogno veramente di cambiare marcia e non sto ancora vedendo tutto questo. Su queste belle note io e i compagni di Conti della Belva auguro a tutti voi in ascolto un buon prepartita, vinca il più forte vi ho detto chi è, però è detto tutto questo, con me appuntamento lunedì mattina alle 8:15 con Alessandro Milan, attenti a noi due. Yeah.